avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu. In questi giorni, se anche devono andare a acquistare, non so, uno scopettino da gabinetto, una manciata di bulloni o qualunque cosa, si sentono dire: aspettate un attimo, dobbiamo rifare il conteggio per l'IVA. Quell'1% di IVA in più fa sì che dobbiamo tutti stare congelati temendo quello che potrà accadere. Io me lo sono sentito dire in questi giorni da varie persone a cui ho telefonato, mi servivano vari oggetti e accessori per le mie attività umarelliche, e tutti fermi, tutti zitti, perché bisogna aspettare per l'1% di IVA in più. Questo mi fa pensare che mai una trasmissione cade così a fagiolo come quella che vogliamo fare questa mattina, scandagliando con Giuseppe Sansonna. Ciao Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Come ogni volta, quello che è il polso della commedia, del cinema salace, della gaglioffaggine portata a livello di sublime dai nostri caratteristi italiani rispetto agli italiani e il fisco. Gli italiani e il fisco è sempre stato un rapporto abbastanza controverso e compromesso, anche in periodi in cui non c'era questo tremebondo sentore di stare sull'orlo della catastrofe, anche negli anni più felici, negli anni in cui l'Italia sembrava andare felicemente verso un suo roseo destino economico, gli italiani avevano già con le tasse un rapporto che facessi pensare che fosse qualcosa di ingiusto, qualcosa di vessatorio, in cui l'evasore diventava un eroe, in cui l'eroe era colui che era talmente furbo o talmente astuto o talmente eroe da riuscire a sconfiggere questo sistema perverso delle tasse. Beh, questa mattina, ascoltando, guardando, riflettendo sul cinema italiano, potremmo anche riflettere, se ci va, su quello che è il nostro atteggiamento, di chi ci sta vicino, rispetto al dovere sacrosanto di pagare delle tasse. In questo paese che si sfascia ogni giorno di più, dove spesso si spara, si ruba, dove si smerciano sigarette e figli di contrabbando, dove si rapiscono i vecchi, dove si seviziano le donne, dove chi è ricco non paga le tasse e chi è povero non riesce a trovare una casa, in questo paese dove anche il mare c'ha il biglietto d'ingresso, l'unica pietra ferma, solida, sono i carabinieri. Noi carabinieri siamo nel cuore, siamo nella fantasia della gente. Sì, va bene, abbiamo arrestato Pinocchio, questo non ce lo perdoneranno mai. Questo è Renzo Montagnani, personaggio siamo abituati, almeno nel nostro più scollacciato e vergognoso immaginario, a ricordare, avvinghiato a voi questa o a quell'altra popputa eroina degli anni Ottanta, che si dividono questa schiera di signore, la grande responsabilità del nostro precoce calo di diottrie. Renzo Montagnani, in un film degli anni Ottanta, quindi molto lontano dall'attuale percezione del disastro, pronunciava queste parole, che potrebbero essere nel loro luogo comunismo generalizzato apparire dentro qualsiasi discorso politico. Oggi, se andassi in piazza e dicessi queste cose qui sotto la radio, avrei un plauso di folla, sembrerebbe tutto quello che la gente vuole sentirsi dire in questo momento. Giuseppe. Viviamo in un eterno presente, comunque vale la pena di spezzare una lancia a favore di Renzo Montagnani, che è stato un grandissimo interprete, costretto da motivi familiari appunto gravi a fare anche pellicole di livello scadente, ma con questa voce calda, avvolgente, riesce comunque a comunicare delle emozioni riguardo al rapporto anche all'Italia com'era in quel periodo. Comunque, no, tornando a prima al discorso dell'esattore delle tasse, gli italiani hanno un rapporto puerile appunto con la figura dell'esattore delle tasse, come se fosse il babau, il mostro nero che incombe che punisce, che sculaccia, che costringe l'italiano a una sorta di responsabilità a cui vuole sfuggire simpaticamente, però in maniera appunto scherzosa, pinocchiesca. Io adesso ti sconvolgerò la scaletta degli ordini, ma però esiste una rappresentazione iconografica dell'esattore delle tasse nella sua efficacia, secondo me vale la pena di riportarla adesso all'attenzione. Il film è Totò Diabolus, così do il tempo al professor Chiappini di selezionare il suo archivio. Totò Diabolus è una storia, la ricordo a braccio, sempre il solito gioco del sosia, quello sfigato. Alla fine Totò arriva a avere un bel gruzzoletto di soldi, è ricco, sembra felice, contento. Un film di che anno, Totò Diabolus? Primi anni 60. Primi anni, quindi fine anni 50, addirittura fine anni 60, un momento in cui era impensabile che si usciva da un disastro, quindi era il momento della riemersione, erano tutti felici. Beh, anche lì a turbare la felicità di Totò, finalmente ricco, finalmente appagato, finalmente pieno di soldi, chi è? È proprio l'esattore delle tasse. Vado ad aprire? Sì. Sì. Lei è il signor Bonocore? Sì. È sfuggito a Diabolicus, ma a me non sfuggirà. Ma scusi, lei è? Sono l'agente delle tasse. Consideriamo che il film era bianco e nero, il personaggio è una sorta di Freddy Krueger ante litteram, un incubo che nasce proprio da un desiderio represso di felicità. Era un vecchio malvissuto alla goglia, illuminato dal basso come in un film espressionista tedesco, con questa voce stridula che va a chiudere questo film, in cui appunto Totò, come i miti dell'epoca, qui siamo nel 62, i miti anche fumettistici, Diabolicus era Diabolic, Satanic, Criminal, gente che si arricchiva senza dover pagare mai tasse, per l'appunto. Cioè lui riesce a eludere la loro ferocia, però non può eludere quella appunto della responsabilità, che è una forma cancerina in questo caso. 800240024, attendiamo il vostro commento, il vostro contributo. Anche voi siete stati allivati con questa idea che l'esattore delle tasse fosse un personaggio diabolico, un volto sdentato, sembra un demone arcaico uscito alle viscere della terra per ricordarti che anche tu devi morire. E la morte è il giusto pedaggio, la morte civile, è il pagamento delle tasse, ciò che uno deve comunque allo Stato. Non entriamo in merito sul peso fiscale, sulle differenze con altri paesi. Per un attimo alleggeriamoci e approfondiamo nel nostro inconscio quale sia la percezione, per questo che è importante. Allora 800240024, chi conoscete che in realtà assomiglia a questi personaggi? Da una parte la proclamazione esterna di pubbliche di virtù, di inviti alla moralità, di inviti alla fedeltà nei confronti dello Stato, e d'altra parte quali sono i sotterfugi privati, piccolissimi, infingardi che le persone usano per eludere appunto il peso delle tasse? Andiamo avanti con la nostra rassegna. Deficienti, non avete capito? È possibile che devo essere io a insegnarvi il mestiere? Allora state bene a sentire, è il solito giochetto delle scatole cinesi. Sì, un trucchetto al quale si ricorre in questi casi per fregare il fisco. Allora aprite bene l'orecchio, cercate di rastrellare il maggior numero possibile di azioni delle mie società italiane. Trasferite il tutto in una società delle Bahamas, nella quale io ovviamente non compaio! Chiaro? Così il gioco è fatto. Aspetti, deficiente. Pronti? Lei ha sentito il partito? E cosa dicono? Ah sì? Oh, senta, per quella cosa lì, venda tutto. Sì, tutto, tutto, subito. Ah, perché ha parlato col ministro? E lui? Ah, un momento. Invece lei compri, chiaro? Tutto, tutto, tutto quello che c'è sul mercato. E ora vi saluto, che il telefono costa. Addio. Dottore. Chi è? Mi scusi, dottore. La macchina sta arrivando. Sempre la stessa, eh? Sempre la stessa. Anche qui un altro episodio molto calzante, che in realtà esistono delle caratteristiche comuni nel nostro paese, che sono sempre sopravvissute, rappresentate, eternificate dal luogo comune, dallo sbeffeggiamento, alla satira, e oggi le ritroviamo facenti parte delle cronache quotidiane. Una nota di servizio: non continuate a telefonare sull'IVA, non è argomento mio, tenetevi gli argomenti seri e le discussioni in realtà sulla situazione economico-finanziaria con l'ottimo Giannino che mi precede. Qui stiamo parlando di quintessenza, facciamo elaborazioni oniriche della realtà. La realtà nelle sue fattispecie concrete viene trattata da chi ha gli strumenti per farlo. Qui non li abbiamo, siamo sprovvisti. Stiamo semplicemente raccontando che tutto ciò che sta accadendo, che sembra che abbia la stigma dell'evento mai accaduto, in realtà fa parte di un lungo percorso che abbiamo seguito in questi decenni, che ci vede comunque non così affezionati al nostro quotidiano dovere di essere bravi i cittadini, anche perché paghiamo le tasse. In questo caso Villaggio è uno sfigatissimo e poverissimo tassista morto di fame, che fa la testa di legno per Johnny Dorelli, che è un finanziere spregiudicato, ma alla fine lo fregherà a sua volta e diventerà peggio del suo cattivo maestro. Sì, il film è a tu per tu del 1984, quindi è una quintessenza, come dicevi tu, degli anni 80. Sullo sfondo ascoltiamo la voce dei Righeira che cantano esaltati No tengo di nero, no? Ecco, poi ci siamo dimenticati che nei felici anni 80, quelli dell'edonismo reganiano, come diceva Roberto D'Agostino, già esisteva ben delimitata questa figura, sembra appartenere soltanto agli anni del tramonto dell'Occidente che stiamo certificando in questa edizione di Melo. No, in realtà è un eterno presente che viviamo da 35 anni, la storia si è fermata, si è incriccata lì all'inizio degli anni 80, appunto. E Dorelli è una summa metafisica, con la sua faccia patinata, levigata, dell'imprenditore, dell'industriale, che utilizza il povero e incarognito ligure Paolo Villaggio per farsi portare in Svizzera, per usarlo appunto come prestanome. Ma poi c'è il rovesciamento finale, in cui Villaggio fa emergere la sua vera natura, quella esistenziale, quel tratto feroce da belva umana che noi ben conosciamo, e ne prende il posto, mostrando appunto come il teorema anni 80, in cui il povero in realtà volesse semplicemente ferocemente essere il ricco. Questa è la summa. La lezione che ci danno comunque questi film, lezione se noi vogliamo comunque intravedere o cercare di ravanare nelle viscere della nostra commedia per tirarne fuori degli auspici o delle indicazioni di vita, è che in realtà non esiste una diffusione in particolari classi sociali o in particolari luoghi ideologici dell'idea che si possa fregare lo Stato. Chiunque abbia l'occasione di farlo segue questa tentazione. In questo il film è maestro, nel vedere Villaggio come facilmente, da poveretto, da persona che non ha nulla, appena qualcosa, riesce subito, immediatamente, ad entrare nella figura del callido e perspicace esperto in fregatura fiscale, è sorprendente. Datevi una svegliata, 800 24 00 24. Capisco che è un argomento doloroso, capisco che tutti temono di scoprirsi parlandone, ma parlate male del vostro vicino, parlate male della persona che vi sta antipatica, cercate di aiutarmi nel capire quanto realmente esista una verità in questa facezia, perché la commedia parla delle nostre corna, parla dei nostri vizi, parla delle nostre debolezze, ma quando parla di questo tema che è così attuale, così all'ordine del giorno, così legato alla cronaca, così legato ai nostri sonni tormentati, alle nostre giornate affannate, forse vale la pena di riflettere quanto noi siamo rappresentati da questo tipo di cinema. Sì, poi nell'italiano c'è anche il retaggio antico del gabelliere medievale, ovvero della figura del feudatario, del grande sovrano che estorce il sangue attraverso ai servi della gleba, quindi è rimasto anche una sorta di figura di sceriffo di Nottingham quasi nel vedere l'esattore delle tasse. Poi col tempo, appunto, invece dagli anni 80 in poi, in cui c'era la possibilità di attingere a fonti di denaro, o quantomeno l'illusione di avere e possedere grandi somme di denaro in tutti, l'esattore delle tasse è diventato una figura appunto da eludere. L'abilità appunto dell'imprenditore scontata, data, incorporata nella figura imprenditoriale, è quella di sapere come eludere le tasse. È lì che si crea appunto la prospettiva di guadagno reale. Però il tratto percepibile comune di tutti questi film, quelli che adesso vi faremo ascoltare raccontandoveli, è che l'evasore non ha quei tratti vergognosi. In alcuni paesi come negli Stati Uniti, l'esattore delle tasse, ieri sera ho visto a Ballarò un signore che raccontava di aver frequentato e visitato un carcere americano di massima sicurezza, in cui la maggior parte dei reclusi erano evasori delle tasse, e venivano considerati quasi come dei criminali. Sono persone che non avrebbero più il coraggio di presentarsi alla società civile prima di aver pagato il loro debito. Oggi l'evasore delle tasse è quasi una sorta di guascone, una di simpatica canaglia. Una simpatica canaglia, non sapendo che in realtà la sua canagliaggine intacca e provoca anche i nostri sogni inquieti di questo periodo. Lei la sera del 16 aprile si trovava in un nightclub dove ha speso la bella somma di 108.000 lire per champagne e donnette allegre. Come può una persona che spende lire 108.000 in una sola serata, cosa che lei fa molto spesso come a noi risulta, denunciare un introito mensile di 108.500? Oh, basta! Basta! Sì, è vero, confesso! Sono un evasore fiscale! bieco. Eh? Sì, un bieco evasore fiscale. Signor Ballarin, firmi la confessione. A me ha divertito molto vedere in questa scena in cui il funzionario integerrimo del fisco è Ciccio Ingrassia, quindi già incredibile in sé, poco credibile in sé, un comico, un buffone che fa la figura del personaggio integerrimo del grande esattore delle tasse, in realtà già ne dimostra il lato fallace, fa l'occhiolino al fatto che sia un cialtrone. Ma è bellissimo questo interrogatorio dell'evasore fiscale, sembra quasi una scena da film poliziesco, addirittura da Santa Inquisizione, buio totale, luce in faccia, tutti che gli girano intorno, lui sudato. E ciò che viene contestato all'evasore è esattamente quello di cui oggi leggiamo sui giornali. Una persona che fa una vita superiore alle sue possibilità, spende più di quello che guadagna, lo spende in donnine allegre, in champagne, in belle macchine, alla fine deve confessare. Qui Ciccio Ingrassia in realtà è il physique du rôle da vampiro di Murnau, da Max Schreck, con quelle sue lunghe leve, quel personaggio. È sempre una sanguisuga, chi chiede tasse. Ossuto, famelico e con queste mani lunghissime che aveva, che verranno valorizzate poi da Elio Petri in todo modo. E appunto, come un inquisitore, indaga poi sulla vita, è come una sorta di diario, di perlustrazione intima delle vicissitudini. Qui si esagera, ovviamente c'è l'iperbole, però è affascinante. Non esisteva ancora lo strumento dell'intercettazione, quindi la difesa di dire avete guardato nel mio privato, nella mia privacy, allora è rappresentato semplicemente un interrogatorio poliziesco, ai limiti della tortura, per far confessare poi le cose intime che erano però sintomo dell'evasione. Però, richiamando poi un'Italia morigerata, è un po' figure da vignette della settimana. Si fa ridere altro che le ammucchiate multiple, un po' di champagne e una serata al nightclub, che era il massimo della trasgressione. Ma quella è, in realtà oggi assistiamo solo all'iperbole di quello che era il passato, il sogno dell'italiano medio, appunto era il night, l'esotismo finto, dipinto, di cui abbiamo parlato più volte. Quello di Totò e Peppino, sì. E la mala femmina che vanno al night e comprano e acquistano champagne alle fanciulle del teatranti che avevano ospitato. L'italiano sogna sempre una Casablanca dipinta sul polistirolo, poi ama Fantozzi perché sogna di essere Calboni fondamentalmente. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, no, io penso che oggi almeno cioè il mio pensiero, mi auguro che come me ce ne siano tanti, almeno spaventa l'esattore delle tasse, perché sono consapevole che se tutti pagassimo le tasse molto probabilmente ci sarebbero più servizi per la scuola, la sanità. Anche perché oggi non lo allucinamo più, io non so che faccia abbia l'esattore delle tasse, perché anche le contestazioni che arrivano sul 740 arrivano via raccomandata espresso, no? Le porta al commercialista, non vede mai una faccia cattiva. Certo, è come la multa dell'auto Velox. Infatti, non puoi immaginare che ci sia dietro un satanico signore, ma a me al massimo mi arriva una raccomandata, la porto al commercialista, ci abbiamo sbagliato qualcosa e ricominciamo da capo. Certo. Quindi lei non ha questo incubo, trova che sia legato a un periodo analogico in cui c'era un rapporto quotidiano, costante. Poi non lo so, io non faccio il commerciante, ma è qualcuno degli ascoltatori che ha un rapporto fisico con chi poi esige o chiede merito alle tasse, ha avuto, che ne so, una visita della finanza. Mi racconti ciò che si prova, ciò che si sente. Se qualcosa di queste sensazioni corrispondono ad esperienze reali è importante, perché io sono convinto che la commedia, che il cinema di genere italiano, rappresentasse uno stato d'animo diffuso e niente come il cinema è riuscito a raccontarlo, nemmeno le cronache dei tempi. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Se un contribuente deve pagare le tasse per Bacco! E per Bacco no! Io sono un estinto, non un contribuente! Io non sono un contribuente, io sono un defunto! E allora si faccia il defunto! Lei non ha nessun diritto di gridare! I morti non parlano, mi sono spiegato! Lei è l'unico morto che è chiacchierone! Che c'è? Ma qui c'è uno sbaglio! Lo dicevo io! Ne ero certo! C'è uno sbaglio di uno zero! Di uno zero! Di uno zero in più! No, no, uno zero in meno! Di uno zero in meno! Sono 880.000 lire che deve pagare il signore! 800240024, stiamo vedendo assieme a Giuseppe Sanson quanto siano frusche, infernali e punitive le spire degli uffici delle tasse, già dagli anni 60, agli anni 70, addirittura dalla fine degli anni 50. Il rapporto fra gli italiani e le tasse è sempre stato descritto come qualcosa di infernale, quasi il passaggio in una dimensione parallela in cui ci fossero soltanto demoni pronti a succhiare il sangue. Ricordiamo di cosa stiamo parlando in particolare. Stiamo parlando di Scusi ma lei le paga le tasse, di Mino Guerini, siamo in pieno 71 e c'è lo scimmiesco Franco Franchi che affianca appunto il vampiresco Ciccio e inquisisce questo malcapitato appunto cittadino, facendo riferimento tra l'altro a uno stratagemma che poi verrà molto usato, cioè quello addirittura del fingersi estinto, no? Per pur di non pagare, cioè pur di dichiararsi da vivo, fingersi morto. Fingersi morto per eludere il fisco. Che è, diciamo, la speculare truffa allo Stato di ritirare la pensione del nonno mummificato. Si scherza con la morte, si esorcizza anche la morte attraverso questo. Cioè, il tuo conterraneo Alberto Burri, parlavamo a Città di Castello l'altro giorno proprio di lui, pagava le tasse sia, uno dei pittori più quotati del mondo, quindi molto ricco anche, pagava le tasse sia in America che in Italia. E diceva, però in America io poi ricevo un documento che mi dice, ecco, le tasse sono andate alla scuola, a quel pezzo di strada, le ha pagato questo. In Italia finiscono in un mare magnum di cui non so nulla, quindi era un aneddoto legato a lui. Insomma. Sì, e poi sono le tante opposizioni di rimando che faranno gli ascoltatori, adesso avranno pieno possibilità di parola, rispetto a questo stereotipo. Se lo stereotipo esiste, già immagino la reazione, è perché evidentemente nel nostro paese e poi una serie di lecite contestazioni. Sentiamo Francesco. Buongiorno. Sì, buongiorno. Lei ha sentito Franco e Ciccio, Villaggio, i comici. Ecco, come la vede, come la pensa? Si sente rappresentato da questi personaggi? Beh, mi sento rappresentato nel senso che è una guerra un po' tra poveri, quelli che non pagano le tasse spesso. Beh, mica quindi, sono sempre tanto poveri. In questo immaginario cinematografico effettivamente è il furbo che possiede qualcosa, che si arricchisce non pagando le tasse. Però in genere io, per esempio, parlando con un mio amico, ci si pone spesso la domanda, noi guadagniamo pochissimo, e dire ma se non pagassimo le tasse. E a un certo punto, un giorno, lui è uscito con questa frase che a mio parere è rappresentativa e mi dice, guarda, io a un certo punto ti dirò, sono troppo povero per avere un'etica. E quindi questo un po' è stato la frase che un po' ci ha fatto pensare, insomma, no? Che a un certo punto arrivi a un livello, e credo che oggi questo un po' è un livello. La stessa frase la potrebbe dire un trasportatore di capitali all'estero, sono troppo ricco per avere un'etica e quindi ecco, per pagare... infatti gli opposti a volte coincidono, quindi nulla, volevo solo gettare questa frase. No, ma è interessante che comunque il gettito della propria ricchezza nella lecita parte che si deve allo Stato è sempre legato, almeno nel nostro paese. Poi ci saranno delle cause tecniche, ma ripeto, non è qua compito mio capire il perché. Esiste comunque una sorta di generalizzato atavico e profondo malcontento nei confronti del pagare le tasse. Se questo poi derivi da un nostro vizio, da un malcostume generale, da una incapacità di percepire lo Stato come un'entità a cui si debba qualcosa, non lo so bene, o se questo è dovuto comunque a un sistema fiscale da riformare, e anche questa sarà un'altra verità, ma noi certifichiamo questa mattina che esiste da molti decenni. Senta, signor Pezzella, dica maresciallo. Questo non va. Sì. Lei credeva che fosse mia moglie, no. Le ha mandato il biglietto per posta facendole lo sconto del 75%, non è così? No, io non credevo mica che fosse sua moglie. Io lo sconto lo faccio a tutte le signore, a tutti i clienti, come guardi, è l'abitudine. Lei mi pare che stia passando i limiti. Ma perché? Perché fino a che si trattava del caffè, delle bottarelle, della telefonata, ma adesso mi sembra che questa sia corruzione vera e propria. Ma non me lo faccio. E quindi un reato. Sogno. Un reato punibile dal codice penale con la detenzione da 6 mesi a 2 anni. No, per carità, ma non diciamo eresie. Sì. Crede? E come credo? Veramente? Già. O per poco. Ma dico, ma io non capisco perché, io lo scondo, non lo faccio solo... Mettiamo altra carne al fuoco, la corruzione del funzionario della Guardia di Finanza. Sembra qualcosa che appartiene a attualità processuali, ma in realtà Totò e Fabrizio, una delle tante loro interpretazioni dei guardia e ladro, mettono di fronte un commerciante di abiti che per filosofia di vita proprio lui le tasse non le vuol pagare, è un funzionario della Guardia di Finanza che deve fare un accertamento sulla sua attività. Sì, il film è del 59, I Tartassati. 59, ecco, sì. Ti rendi conto da quanto se ne parla? Siamo a ridosso del boom e appunto il batrace gogoliano Aldo Fabrizi deve chiamare alle tasse l'avido Totò, che appunto qui rappresenta metafisicamente la piccola borghesia velenosa e trituratrice del linguaggio burocratico che ne ingorga le viscere, come scoprirà benissimo poi Pasolini in Uccellacci Uccellini quando lo estrarrà da tutti questi film Totò. Ma è qui il conflitto è questo, fra la solarità con cui Totò cerca comunque la via della corruzione, dandola quasi per scontato che sorridendo, ammiccando, regalando si possa comunque eludere. Regalava abiti alla moglie del maresciallo della finanza, sì. In realtà una volta scoperto è stato costretto poi a fare lo sconto del 700%, non so quant'è. A tutti, e perché... quindi rovinandosi. Andiamo avanti con gli ascoltori. Mario. Oh, buongiorno Nicoletti e buongiorno signor Sanson. Niente, mi avete un pochino preceduto. Signor Sanson. Sì. O Sansonite, a seconda dello sponsor. Sonzogno anche. Niente, mi avete preceduto perché appunto volevo parlare dei Tartassati. Però a prescindere questo, come mai da molti anni... Lei parla anche come Totò, oltre a averlo come eroe cinematografico. Dice a prescindere. A prescindere, giustamente. Niente, però come mai da tanti anni non si fanno più film su questo argomento? Beh, bellissima domanda. Lei dice, ci si scherzava negli anni 50, negli anni 60, degli anni di piombo, gli anni 70. Volavano mine per strada, si arrestavano persone, si sparava ovunque, però già... si scherzava ancora sulle tasse. Negli anni 80 era l'apoteosi, gli anni della ricchezza, dell'idonismo. A un certo punto non se ne è più parlato. Lei se l'è data una risposta a questa sua domanda? Ma sì, che gli evasori hanno un po' più di pudore e quindi si manifestano meno, però continuano ad essere evasori, insomma, ecco, e ce ne sono sempre tanti. O sono quelli che fanno il cinema e quindi non vogliono parlare di loro. Beh, diciamo, potrebbe essere anche questo, sicuramente ci sarà una parte. Però a prescindere da questo, ecco, c'è un po' meno il farsi vedere, sono diventati più furbi. Forse. Questo è interessante, anche perché oggi abbiamo un cinema quotidiano nelle letture delle intercettazioni, nei processi raccontati in televisione e sui giornali, quindi c'è un po'... se ne parla tanto nella realtà e quindi il cinema cerca altre ispirazioni probabilmente. Giuseppe, tu come la pensi? È esattamente così, la società spettacolare è talmente invasiva e intasante, quindi il cinema in realtà rimbalza sui telegiornali, non deve scoprire più nulla, non deve indagare più nulla, non deve... e questo manca, perché manca la visione poetica in profondità, non bidimensionale. Allora metteva il dito su una piaga, io immagino che le cronache di allora parlassero molto poco dell'evasore fiscale, se non ne avesse parlato Totò, Renzo Montagnani e Ciccio e Franco. Sì, era una figura appunto da tratteggiare. C'è anche un film come Stanza 1717 con Tognazzi che fa appunto il funzionario del fisco inabissato in queste cantine. Ci sono questa serie di evasori, Moschin e compagni, addirittura uno dei... surreale e schifoso, va coi pattini a rotelle nei sotterranei della burocrazia, è orrendo in faccia, ambiguo, laido proprio, però lui rappresentava le tasse. Esatto, metafisicamente quello. E c'era Sartana, addirittura uno degli attori di Sartana che era un evasore, come dicevi tu, era uno cinematografaro evasore del fisco. 800240024, continuiamo dopo il traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Nessun crimine, nessun criminale. Alfredo Rossi, signori, è un piccolo uomo. Digiuno di lettere e di arte, provvisto di un insufficiente patrimonio morale, piccolo borghese, infantilmente fiero dei costosi giocattoli, le donne, le automobili, la villa che finalmente possiede, Alfredo Rossi, signori, non è che un ameno villeggiante sulle spiagge della vita. Alfredo Rossi, signori, non ha la statura del protagonista, egli è solo una comparsa, un mediocre... Qua siamo, Giuseppe Sanson, un altro processo surreale, un'altra dimensione parallela che si apre in Svizzera per Alberto Sordi, che se ne andava a fare il suo bravo trasporto di valuta in un paradiso fiscale. Allora la Svizzera era quello più vicino a portata di mano, più percepibile nell'immaginario industriale italiano degli evasori, e si trova di fronte anche lui a una sorta di tribunale stranissimo, di signori che lo processano e alla fine lo condanneranno. È un cortocircuito molto interessante quello operato da scuola, perché Cala Sordi, con tutto il suo portato canagliesco appunto da piccolo borghese, nello scenario durrenmattiano dello svizzero Durrenmatt, quindi a contatto con i vecchi leoni del cinema francese come Michel Simon, Brasser, che gli fanno questo processo in una sorta di dimensione metastorica e lo condanneranno. Poi il film edulcora un po' Durrenmatt, ma comunque la forte vena perturbante è percepita, insomma è un film molto inquietante, molto intelligente, molto sottile. Sentiamo Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei c'ha un'esperienza da raccontarci che forse ci corrobora rispetto a quello che sentiamo raccontato per finzione. Beh, sì, diciamo che l'aspetto grave secondo me è che il povero non si può difendere, perché normalmente l'evasore viene riconosciuto come una persona che ruba, che fa movimenti, affari, eccetera, mentre chi magari ci arriva per motivi purtroppo della vita, assurdi, chiude un negozio, gli muore la moglie, gli perdono casa, gli tolgono la casa e chiede alla banca di allungare il mutuo da 25 a 40 anni e la banca gli manda la casa all'asta pur prendendoci la metà del valore, e la casa la comprano gli speculatori, quelli che fanno questi movimenti, comprano le case all'asta e se le rivendono. E questa è una tristissima e comune vicenda. I costruttori e le agenzie immobiliari lavorano al nero, vogliono soldi al nero, vogliono io per fare un contratto di mutuo all'agenzia immobiliare devo dare i soldi al nero, se altrimenti perdo casa. Poi che succede? Tu hai la vita distrutta, il tuo nome è massacrato a vita, non puoi più prendere un prestito, non perdi il lavoro, non puoi più prendere. Poi vede Giuseppe, Giuseppe, non voglio interrompere il suo racconto, che sento vissuto sulla stessa carne. Quello che lei adesso sente come con senso di disperazione, di vergogna, in realtà non è così per tutti. Non tutti hanno questa sorta di rivolgimento interiore, di senso di disperazione, distruzione. Le persone rappresentate in questi film, che con la faccia tosta, pronti a ricominciare ogni giorno, a cambiare ragione sociale, a rimettersi nel circolo, a essere straprotestati e strainquisiti e continuare ad andare avanti, non hanno questo tipo di dolorosa reazione che ha lei in questo momento. Lei scrive, lo leggo dalla scheda, dice: è una sensazione vergognosa, ci sente dei vermi quando ce n'è contestata un'evasione fiscale. Così l'ufficiale giudiziario, lui a casa mia eravamo dei vermi, perché per lui noi siamo dei malfattori, non siamo delle persone sfortunate che la vita ci ha chiuso le porte, no. Abbiamo deciso di rubare al fisco, ma cosa mai? Noi abbiamo sempre pagato come lavoratori dipendenti, come negozianti, addirittura per avere un rimborso di IVA sono passati 5 anni e non ce l'abbiamo, e ci hanno mandato una multa dicendo che l'avevamo preso e non avevamo diritto, cioè addirittura tartassati anche su cose che non avevamo mai preso. Questo purtroppo è così, il povero non si può difendere, un avvocato costa, il mio avvocato non prende una causa in mano perché vuole 2500 euro soltanto per iniziare a impostarla, quindi io come mi difendo? Questo è il senso, l'evasore che decide di evadere lo fa ben sapendo quello a cui va incontro e sa come difendersi, la persona che non riesce ad arrivarci e per questo motivo il suo nome viene infangato dalla CRIF, dalle banche, dalle cose, non sa più come uscirne fuori. Io per prendere una casa in affitto, adesso che il 27 la casa va all'asta e me la portano via, io devo fare un'assicurazione perché chi mi affitta casa non è sicuro che io poi possa pagare. Naturalmente se non c'ha le garanzie non si fidi di affittare casa. Giuseppe, le posso fare solo in bocca al lupo. Lei ha rappresentato, ben rappresentato, dolorosamente e visceralmente rappresentato, naturalmente, l'aspetto che non conferma quello che noi abbiamo questa mattina raccontato. La persona che si trova in una situazione drammatica, stretto fra i debitori, le banche, i creditori, le banche, i gettiti fiscali, è vicino alla disperazione. Ma ripeto, la commedia italiana rappresenta questa situazione anche spalmata in situazioni che non hanno questo portato doloroso, è quasi uno sport. Casto, buongiorno. Buongiorno. Chiamandosi Casto, lei naturalmente non è stato mai attraversato nemmeno dalla tentazione di evadere le tasse. Sì, come no, certo. Allora, volevo semplicemente approfittare di questa occasione per dimostrare al popolo italiano l'utilità di pagare le tasse. Io sono stato 2 volte trattantato dal sistema nazionale e da 10 anni devo prendere delle medicine molto molto costose. Una scatola di queste medicine costa 200 euro a settimana. E quindi il costo di 2 trapianti, rilevato all'epoca del trapianto, era di 250 milioni di vecchie lire, quante me ne avevano chieste nei vari ospedali europei per poter fare la stessa operazione. Sì. In altri termini, io pago ogni giugno le mie tasse col sorriso sulle labbra e sono ancora a credito per quello che riguarda il beneficio che ho avuto da questo intervento, da questi interventi, cosa che sicuramente se non avessi io, come gli altri, pagato le tasse, non se lo sarebbe potuto permettere. Lei ha mostrato esattamente il rovescio della medaglia rispetto all'ascoltore di prima, una situazione in cui in realtà lo Stato, quando in realtà fa il suo dovere di restituire in servizio le tasse che noi gettiamo, ci si accorge che in realtà, se il sistema funzionasse in quella direzione, sia da parte dell'attenzione dello Stato ai bisogni dei cittadini nel saper usare bene appunto il gettito delle tasse, sia da parte dei cittadini nel saperle versare. Franco, chiudiamo con Franco. Mi ha colpito lo spot, un riferimento molto attuale all'evasore, cioè lo spot che va in onda sulle reti Rai, dove raffigura proprio l'evasore. Prima vengono mostrati coi colori del microscopio digitale i parassiti, gli ingrandimenti dei parassiti, degli animali, delle piante, con anche dei bei colori, e poi viene raffigurato l'evasore con le sembianze proprio di un modello che dovrebbe rappresentare un brutto ceffo con la barba lunga. Ecco, beh, chi l'ha fatto si sarà ben documentato, avrà studiato nell'immaginario collettivo qual era la maniera più forte per rappresentare la schifosaggine di chi non pagasse le tasse. Forse quello che dice lei è esattamente la risposta all'evasore eroe guascone e infame simpatico che abbiamo questa mattina visto rappresentare il cinema. No, appunto il pudore che c'è in questa trapianto è molto bello, però di solito l'evasore è uno che fa parte del gioco, che vuole, che lo contempla come parte del gioco la possibilità di evadere. Però visto che queste erano telefonate che ci hanno voluto dare degli esempi limite, l'abbiamo volentieri portata a integrare la nostra mattinata. Grazie al professor Chiappini, grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Giuseppe Sansonna, a domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.